La questione di genere balza agli occhi perché le donne sono rimaste in due. Nel CTS, man mano che il tempo era passato, erano state inserite via via dei membri anche femminili, perché ricordiamo che all'inizio erano interamente maschili i componenti del CTS, poi erano stati aggiunti dei membri femminili. Con questa rivisitazione del CTS sono rimaste soltanto due donne, sono Cinzia Caporale e Alessia Melegaro. Va detto che sono due, ma su una compagine che comunque nel complesso viene praticamente dimezzata, perché adesso i membri sono 12. Tra i membri del CTS ci sono anche alcune figure che forse sono un po' problematiche. In particolare tu hai sottolineato anche quello che faceva e che fa nella vita Alberto Giovanni Gerli. Sì, lui forse è il membro meno conosciuto del comitato tecnico scientifico, è un outsider del mondo della ricerca, perché appunto in realtà non viene dalla comunità scientifica, ha una storia di imprenditore, esperto di sistemi di illuminazione, ha un nome nel mondo del bridge, però negli ultimi mesi si era cimentato con le previsioni sulla pandemia e ricevendo anche un certo ascolto attraverso i social e anche da parte di alcuni membri degli enti locali, alcuni amministratori locali avevano chiesto consulenze proprio a lui. Però insomma, tutto sommato nel mondo della comunità scientifica è abbastanza uno sconosciuto, e però evidentemente insomma l'ascolto che ha avuto lo ha portato fino al comitato tecnico scientifico, cioè insomma, in qualche modo al vertice della comunità scientifica italiana che si sta occupando della pandemia. Sempre nel comitato sono presenti anche Donato Greco, che è un epidemiologo, già stato dirigente del Ministero della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, e Giorgio Palù, che è il presidente di AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che insomma negli ultimi giorni ha fatto parlare un po' di sé anche per il cambio di posizione repentino sulla questione AstraZeneca. Li cito insieme perché tu hai sottolineato che queste persone sono anche firmatari di un documento dell'estate scorsa, che forse danno anche un'interpretazione su come sono arrivate queste nomine, no? Sì, entrambi erano tra i firmatari di un piccolo manifesto, forse più che documento, che avevano scritto Matteo Bassetti, Alberto Zangrillo, Massimo Clementi, insomma tutto quel mondo di virologi, di infettivologi che all'inizio della scorsa estate in qualche modo sostenevano che il virus fosse mutato e che la pandemia fosse destinata a risolversi ben presto. Insomma, tra coloro che avevano un po' sposato quella linea c'erano anche Donato Greco e Giorgio Palù. Palù è un virologo anche importante, ora in pensione, ma che nei mesi scorsi era stato consulente del ministro Zaia, prima di diventare, probabilmente anche grazie all'appoggio ottenuto da quella parte politica, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Ricordiamo che l'Agenzia Italiana del Farmaco era presente all'interno del CTS con il suo direttore generale Nicola Magrini, quindi in qualche modo c'è un avvicendamento all'interno del CTS in cui esce il direttore dell'AIFA e entra il presidente dell'AIFA, che come abbiamo visto per esempio nella vicenda degli anticorpi monoclonali hanno spesso avuto posizioni opposte, insomma, in questa coabitazione piuttosto bizzarra. L'altro epidemiologo che hai citato è Donato Greco, anche lui è un epidemiologo di una certa rilevanza scientifica, ma negli ultimi mesi si era fatto notare all'interno del gruppo di Pillole di Ottimismo, che forse a qualcuno non dirà niente, ma a chi segue i social invece sarà capitato di incontrare, perché è uno dei gruppi di epidemiologi sui social che nei mesi scorsi aveva fatto parlare maggiormente di sé. Anche loro, appunto, sin dal nome Pillole di Ottimismo, avevano sempre cercato un po' di minimizzare il rischio pandemico, erano stati probabilmente i principali fautori dell'uso degli anticorpi monoclonali che poi avevano portato a tutta quella querela di circa un mesetto fa. Donato Greco insieme a Sara Gandini per esempio è stata anche uno dei promotori, diciamo, di una visione della scuola come di un posto sicuro e quindi da tenere aperto anche durante la pandemia. Insomma, vengono un po' da quel mondo che, anche senza avere legami organici con la destra, era stato il mondo un po' più coccolato proprio da Matteo Salvini nei mesi scorsi. Matteo Salvini aveva messo Palù all'interno del suo CTS ideale, aveva detto: se fosse per me il CTS dovrebbe essere composto da Matteo Bassetti, Alberto Zangrillo e Giorgio Palù. Quindi in questa chiave possiamo vedere, come dire, una risposta a logiche di posizionamento politico della nuova maggioranza che sostiene Draghi? Probabilmente sì, probabilmente la parte di destra che sostiene il governo Draghi ha chiesto un po' un riequilibrio, perché all'interno del CTS era stato accusato dalla destra di aver in qualche modo imposto scelte eccessivamente prudenti al governo. Ricordiamo che infatti oggi, come Gianni Rezza, lo stesso Silvio Brusaferro, sono coloro che presentano i dati settimanalmente sulle regioni, sono un po' ritenuti gli ispiratori di una linea molto prudenziale, della linea molto prudenziale seguita dal governo sin dal primo lockdown. E probabilmente c'è da aspettarsi che la Lega abbia chiesto un po' di riequilibrare con questi outsider il comitato tecnico scientifico. Rimane però l'ossatura principale del comitato tecnico scientifico, che continuerà probabilmente ad avere un ruolo preminente, che è quella fatta appunto da Franco Locatelli, da Silvio Brusaferro e da Gianni Rezza, che sono rispettivamente il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e il direttore generale della prevenzione al Ministero della Salute, che continueranno probabilmente a essere i pesi massimi di questo comitato tecnico scientifico.